da qualche altra parte. Guardate l'immobilismo, guardate la lentezza. Ci vanno si tandora pa' comanzana diretta. Verim si ci facim, guagliù. Verim si ci facim, guagliù. Buonasera, buonasera, buonasera. Ah, ora vi spieghiamo un poco come funziona. Ma prima di spiegarvelo facciamo una cosa con un signore che sta qua nei nostri pressi. Si chiama Willy. E visto che quest'anno 2016 siamo in tempo di elezioni, credici, o meglio non crederci, non votare, non andarci a perdere il tempo. Qui abbiamo Willy sindaco, il portento. 6 anni fa si è candidato. Meral nu poche scorne s'abbigliate e mo sta là piagnara con manu coccodrilla. Ca Will fa scindilla a sti tant'anna va mette lo scorno in faccia. Ca ogni parola è una minaccia. Willy c'è borisce di cosa sti cretina. Io non ci credo tanto. Altre che Willy sindaco è tutto sbagliato. Sai cosa deve fare? Dobbiamo andare a rompere un cazzo adesso, perché è un schifo, proprio per schifo un cazzo. Sistema fascista, altri che roba dai anche i fucking bambini, poliziotto a morte! È vero! Te lo dico. Oddio! Ma Dio, quando mai? Io l'ho visto Dio, non con la roba, proprio. Stavo sognando. Per me non era un fucking sogno, è di più! Oh sole, sole mio, non c'è più quel fucking sole. C'è sole? Quando? Quando stai bene o quando stai fucking male? Io non mi ricordo quando ero piccolo. Ormai per me il tempo è scaduto. Chi se ne frega, oggi qua, domani non si sa. È vero? Non è vero. Com'è Bologna? Dov'è Bologna? Bologna non c'è più, è rimasto solo noi. Bologna, Bologna, che vergogna. Rosso di giorno e nero di nigger. Com'è? Com'è? Com'è la situazione Bologna? È un fucking vergogna. Anche che l'apparenza inganna, ma quando fucking mai? È vero, ma sorvede Bologna, Bologna è un schifo. Bologna non c'è più, più! Basta, non ho niente da dire. Buona, buona, buonasera. Buonasera, prima diretta. Non sappiamo ancora cosa faremo, ma ve la raccontiamo ancora un po'. Lasciamo scorrere la base un altro po', perché ci rilassa un'altra base, qui si collassa. Non sprechiamo parole, ma facciamo presentazioni. Non veniamo per caso, ma bussiamo alla vostra porta. Gridiamo rivolta, rivolta, olta, rivolta, olta, rivolta, olta. Tempo di presentazioni. Perché prima di cominciare a fare le cose bisogna prima presentarsi, capire chi siamo, prendere distanze da chi non vogliamo. Perché prima di cominciare un percorso, prima di intraprendere dei passi, bisogna chiedere e accordarsi con chi ci abbiamo a fianco e allontanare con chi ci stanna stanca, ci ammorbano, ci rallentano. Noi che ci abbiamo ali sotto i piedi e dobbiamo abbassarci ai vostri livelli fetidi. Non vi aspetterò più, semmai aspettaci. Ci vedremo nei tuoi sogni allucinanti, ludici. Ludici, noi ludici, serata passata, ludiche. Noi ludici siamo, perché amma sclerata e non supportamma più. Tanto semplicismo, tanta superficialità. Scusate la logorroica, ma qua venimmo a raccontare un'altra storia. Un'altra storia, coste nostre, come le montagne, le pianure tutte nostre. Dove siamo? Ogni rifugio, ogni tana, dove si rifugia il lupo, il suo branco, la tigre che mi porto accanto. Che sta succedendo, ragazzi? Qua stiamo cominciando la prima diretta di un progetto appena iniziato, non ancora atterrato, e speriamo che mai atterrerà, perché a noi ci piace volare. Il progetto di cui vi sto parlando si chiama, e potete incontrarlo sul vostro Google scrivendo PKT Wild Solitary Stories, che il signor Willy ci tradurrà: Post Chaotic Times Wild Solitary Stories. Che chiede di sir? Io non ho la palla di Dio, che cazzo stai dicendo? Porre il fucking bene qua, oh. Cazzo c'entro io qua? È roba tua. Oh, what you? Sì, ma io la sto invitando, signor quasi sindaco. Io vorrei ricordare che se a Bologna tutti quelli che non hanno una residenza ma gli lasciano un botto di soldi avessero avuto il diritto di votare, che a me fa schifo, ma ce l'avessero avuto, il signor qui presente Willy sindaco probabilmente avrebbe illuminato le sorti degli ultimi tristi 6 anni bolognesi, in cui personalmente io ero altrove a fare di meglio che intristirmi qui con voi. Quindi, signor quasi sindaco, ci dia delle risposte. Ma quando fa? Che mai? Dai, io non ci riesco a stare dietro questi stronzati qua. Bologna? Bisogna rifare tutto. Il comune, tutti fuori del cazzo. Chiudiamo San Petronio. I fasci devono andare là, a Roma, non qua a Bologna, non vogliamo i fasci qua. Ce n'è. Sacro di Bologna dopo? Bologna si cambia subito, non solo nero, rosso come prima. Vabbè, riprendiamo le redini e le linee del discorso. Allora, qui non abbiamo una formula, non abbiamo una struttura, ogni puntata sarà diversa e forse fine a se stessa, forse no, ci ricollegheremo, faremo delle coincidenze, le chiamiamo coincidenze. Intanto mandiamo un saluto a chi comincia ad ascoltarci: uomini, donne, bambini, bambine, vecchi, vecchie, cani, mi fanno notare, gatti e tutto il resto del creato non puzzolente. E poi voglio fare un saluto speciale a chi accompagna questa prima diretta, traducibile poi in un podcast, di PKT Solitary Stories. Sti cazzi, già non lo so più, di non lo sopporto, troveremo una soluzione a questo nome lunghissimo e impronunciabile. Mandiamo un saluto quindi a chi sta qui con noi e spero accompagnerà questi momenti deliranti con la propria voce, le proprie note, le proprie musiche. Sono un po' logorroico stasera. E un saluto soprattutto a chi sta dall'altra parte dell'oceano, capisce a me, agorafobia, compagneros, por los que aún quedan, ai compagni, per quelli fies, che ancora rimangono. Para la gente que no sepa lo que significa, es ficheros internos de especial seguimiento. Para mí, o sea, para mi hijo y para mí y para todos los que están allí, sería la cárcel dentro de la cárcel y el infierno dentro del infierno. A veces las fuerzas se me van por no tenerte cerca y no me puedo respirar. Extraño tanto tu calor en esta reja de soledad. Aquí solo hay dolor y no lo puedo expresar. Las cosas que me dijiste y todo lo que no hicimos, él hubiera en el aire por declararme su enemigo. Recuerdo a las personas que me regalaron su cariño y en las noches de rebelión nuestras vidas compartimos. Quisiera que estuvieras ahora al lado mío y hablar de música, juego y sueños ya cumplidos. Ahora los recuerdos se apoderan de mi mente, de personas y lugares por las que sentí algo fuerte. Llega la noche, las conclusiones son poesía, estallan mis sentimientos y mi boca sin saliva. Lágrimas y rabia definen mi persona, acciones y compromiso, eso marcará mi historia. Desearía tanto, tanto acariciar tu tenura, andar por las montañas y aullarle a la luna, estar contigo. Es mi sueño inalcanzable, libertad no me deje, siempre voy a buscarte. Yo no me arrepiento de lo que digo y pienso, jamás arrepentidos, jamás nos rendiremos, amada mía. Tan lejos y para que tú vengas como la guerra inevitable contra todo lo existente. La anarquía es imparable como el amor entre rebeldes, compartiendo cariño, amistad y pasiones diferentes, odiando este mundo y a quien lo represente. Que yo puedo ser yo y tú puedes ser así, sin temor al rechazo, ni nada más que reprimir. Yo sé que los barrotes no se curvan de piedad, pero tampoco nosotros dejaremos de luchar. Un día esto acabará, terminará la pesadilla. Quemaré mi uniforme y el de algunos policías. A menudo los sueños son más complejos que la propia realidad. Así vamos empezando, andando por la vida, tratando de romper con todo lo que nos la arruina. Tratamos de ser firmes, aunque a veces decaigamos. No importan datos tristes, y yo tengo a mis afines, a quienes yo confío, mi espalda cuando sea, con quienes yo sé que hay amistad sincera. Siempre habrá desencuentro, siento mucho decírtelo, pero eso no interesa. Si caminamos al infinito, es esta mi banda, con quien yo quiero estar. Es esta siempre mi gente a quien yo voy a respetar por todo lo que han hecho, porque ante todo arriesgan por la lucha y las ideas. Bienvenida muerte sea, sé que ahí estás a la vuelta de la esquina, pero cuando vengas por mí, sabes, llevo compañía. Son mis queridos vándalos, amigos confidentes, somos pocos pero locos. Tú tenlo presente, abriendo paso en las calles con el negro como bandera. Si creemos en nosotros, derrotamos a quien sea. Lo único que hay que perder es la pinche paciencia. Ya no tenemos nada y merecemos la vida entera. Recuerda el inicio y se me eriza la piel. No tenemos todo claro, pero así empezamos bien. De tropezones y aciertos forjamos nuestra amistad. De ahora míranos juntos, nadie nos va a separar. Hay un asiento al lado mío que está en primera fila para ver el fin del mundo, donde sembramos rebeldía. Ahora cosechamos la anhelada revuelta. Son los frutos de una vida viviendo en la anarquía. Ahí te espero, aunque a veces voy tarde. Tú sabes que el tiempo y yo a veces somos rivales, pero una cita contigo jamás la perdería. Cerrando la calle y que se ilumine tu sonrisa, comenzamos así. Y el fuego nos unió, una noche de otoño la complicidad creó. Aún estando bajo capucha, tus ojos resaltaban atacando el viento para encender la llama. Fuimos todos juntos, valientes y decididos, corriendo entre las sombras, cara a cara al enemigo. Volamos bajo para provocar el caos con nuestras alas negras. El fuego hay que vivar, así es mi grupo, el de los irreductibles. Así es mi banda, y aquí nadie se rinde, sé que ahí están. Y no se van, no se van, las palabras me faltan para poderlo expresar. Algunos crecimos juntos en este largo camino, nuestras vidas coincidieron y a veces nos despedimos. Mas sin embargo aquí seguimos empuñando la capucha, molestando y molestando hasta que salte la luna. Esta canción no solo es de amor, amistad. Qua ci abbandona internet. Per fortuna i primi problemi tecnici, spero vi ci abituerete. Che sta succedendo? Perdiamo il controllo della tecnologia. Ragazzi, non fidatevi della tecnologia. Allora, prima di cominciare una serie di letture, come vi dicevo, di presentazioni, qua ci stiamo organizzando, ci saranno vari contributi voce, sonori, i ragazzi sono tutti impegnati a leggere, quindi faremo le presentazioni fra un po'. Mo vi mandiamo una vita sin prisas, una vita senza fretta. Cicatrizados en el asfalto, te dicen desde el palco. Dime, por tu seguridad mis cámaras te están grabando. ¿Qué? La policía está en las calles para protegerte. ¿Qué? Si el atontado de tu barrio lleva placa y está armado. Maldito condenado, presume de poder pero está hipotecado. Aunque con ganas me despierto descontento, y poquito a poco yo lo intento. Luchando contra mí, conmigo mismo me tropiezo y tullido me recompongo. Que la tristeza no le dejo sitio, y para justo los colores, y de colores pinto en el gris de ese feo nublado. La felicidad no tiene guía, de momento a mi manera, la mía, por el camino me lo invento. Aquí estamos apalancados de estados de ánimo un poquito apagados. Vivimos rodeados de barrotes, cárceles, esclavos y amos. Solo algo claro, no vamos a resignar. Nos salimos a la calle y se respira pena. La gente se pasea con caretas de condena. La soledad nos acompaña en esta puta ciudad. Ella es nuestra aliada. Helada intransigente que cambia tu cara y aprieta tus dientes. Y tú ya no vas donde va Vicente. Y es que es mejor tu escondite para mirar el horizonte. Allí las estrellas lucen. Empezaron los problemas, pensamientos surgen. Cómo romper las cadenas, cómo tirar las barreras, cómo acabar con las penas. ¿Qué habrá hoy para la cena? Como siempre, sin razones, nos imponen condiciones. Tú párate a contar tus eslabones. El mayor de tus grilletes está en tu subconsciente y tiene el mismo sabor que los billetes. Inocentemente aprendiste que todo tiene precio, que todo es contable. Y ese fue el principio del inicio, caminito de un viaje a ninguna parte. Con este dogma básico creciste. Solo hay una forma, todo tiene un límite. Y así quedaste limitado, humillado, asalariado en un mercado que agota tu horario, que deja relegados tus sueños a otros planos. Tu vida es trabajo que alimenta a tiranos. Todo se transforma en un círculo cerrado que ata tu futuro y arrastra tu pasado. Vendes tu presente por condena permanente. Tu tiempo es tan pequeño que ya nunca es suficiente. ¿Y qué pasará cuando la gente se levante? Seguramente vivir la vida les encante. Solo una pregunta para elegir tu dirección. ¿Cuál? Y es si ese camino tiene corazón, si lo tiene pa'lante. Eres uno con él, si no lo tiene, te mueres débil. Ciudad desierta, la gente se está echando una siesta mental. Están viendo en la tele como canta Bisbal, muy mal. Pero abren el oído y porquería, porquería. Sin masticar, ciudad tristeza, la gente se lamenta. Otra vez sin suerte no pude llenar la cesta. Rutina en formato túnel, a ningún lado. Y con la corbata te has ahorcado, marcado como el ganado. En capullo que sostiene esto te han transformado. Pero harto de los gapos de sus risas, aprendes del pasado y te partes la camisa. Hoy es el primer día de una vida sin prisas. Una vida sin prisas. Una vida sin prisas. Una vida sin prisas. Una vida sin prisas. Una vida sin prisas. Una vida sin prisas. Una vida sin prisas. Una vida sin prisas. Una vida sin prisas. Febbraio 6, 2016, Bolognina. Ritrovato un volantino che vi leggerei subito. Workshop sul benessere olistico, da febbraio 2016 fino a quando muori. Date luogo da definire, ma te falli dove te pare. Sono 4 i punti. Primo, genere, sessualità e liberazioni. Secondo, sostanze, psicosi e dipendenze. Terzo, presente e politica. Quarto, azione diretta. Primo punto, sessualità polimorfica applicata, primo e secondo livello. Massaggio ciclico, perdurativo di alcune zone erogene, liberazioni psicorigidità, stappaccio dalla scopa dal culo, scambio culturale permanente, insegniamoci le rispettive lingue. Secondo punto, sostanze, psicosi e dipendenze, patentino internazionale di psiconautica. Circoli psicoanalitici sull'origine delle turbe anali. Escursioni senza bussola alla ricerca del lato selvatico. Portaci i tuoi soldi facili. Condivisione ricchezze. Presente politica. Terzo punto. Come ci si arricchisce rubando al prossimo. Partecipa anche tu. Distruzione di habitat naturali. Destalinizzazione applicata alla felicità, defascistizzazione del presente, azione diretta. Quarto punto, consigli da Facebook per entrare a far parte dell'ISIS, fabbricazione di materiali implosivi per liberarci della frustrazione, imbrattaggio e degrado, primo e secondo livello. Non farti sfruttare, lavora. Yo, yo. spara due cazzate, non capirete mai il mio pensiero, perché siete XY accentrici. Il mio obiettivo non è il futuro, non è l'evoluzione, è riportarvi alla preistoria della giovinezza. Se ricordate cos'è, alla spontaneità del piacere di fare per fare, non per il dire di aver fatto o esserci stati. Capite la sottilezza del ragionamento? Oggi scrive un comunicato pubblico, o forse ci si vede in assemblea, o forse me lo dice la Dall'XY. Questo testo riprende una discussione più ampia che è cominciata da tempo sulla forma di gestire lo spazio pubblico autogestito XY, in cui sto provando a organizzarmi e a fare delle cose. Anche se a primo impatto potrebbe sembrare un misto di sfogo personale, frustrazione sopita, rabbia inespressa, cose non dette, eccetera, eccetera. Penso che siano riflessioni, e non solo mie, su una serie di questioni che riguardano noi tutti. Qui, anche se il soggetto del contenitore è nello specifico caso XY, in via XY, nella città XY. Avete chiesto espressamente una non polemica ad personam, e mi sorprende che sia proprio XY a cascare nel solito vizio. Vedi che chi va con lo zoppo impara ad XY. Pensavo che gli XY avessero più senso delle cose digitalizzate, ma pare di no. Mi sembra che c'è qualcuno duro di ricomprendonio, forse anche perché è troppo concentrato su altro per capire che ci casca la terra da sotto i piedi. Questo è un contributo personale ed individuale. Io non mi becco prima al bar a decidere la linea da portare. In asse non mi porto i guardaspalle, e chi mi fa gli applausi e nemmeno il discorso teorico ingarbugliato che capiscono solo gli svannettatori di cultura imperante. Non mi faccio nemmeno assemblee a porte chiuse da massoni del movimento, ma vivo lo spazio quasi quotidianamente. Voi invece dove siete? Che non vi si vede mai, a parte con zucare energie. Cosa ci stimmi, fi state facendo? Non capirete mai il mio pensiero, perché siete XY accentrici. Hai ragione, bello de zio, il mondo l'ho girato e non in rete, ma non mi sembra che interessi a molte sapere cosa c'è lì fuori. Nessuno in 5 anni mi ha chiesto mai un cazzo, un confronto, un'iniziativa, un dibattito, una chiacchierata che non fosse da bar, che mi sembra sia l'unico piano su cui siamo tutti pienamente d'accordo, su questo e su quello. Non capirete mai il disagio di fronte all'esistente, perché ci avete il culo parato, gente. Perché i calci nei denti non sapete cosa sono, perché parlate di povertà, proletariato, ora precariato a nome di altri che manco capiscono la vostra lingua forbita d'accademici. mai il disagio di fronte all'esistente, perché siete seduti su sedie e divani comodi in calde case pagate dal papio, dall'eredità cascata dal cielo, mangiando cibo bio e vegan come la moda comanda. Potrei proseguire per ore proprio perché ho girato e la pochezza è diffusa, è propria del nuovo mondo che io e altri si prova a combattere mentre altri se la chiacchierano a casa, al bar, su WhatsApp e altre diavolerie di chi non riuscite più a fare a meno. Personali, ma anche riflessioni nostrane, ragazzi, ragazze, che non si offenda nessuno, qua non veniamo con nessuna pretesa, ma solo fiamma accesa sotto il culo perché ci rode da non poco. Volevo dirvelo dal vivo ma non potevo, preferite il gioco, internet, va già fatto puro blog, PKT. Wild Solitary Stories, PKT. Wild Solitary Stories, nel senso che uno si sente totalmente solo, isolato, da dover aprire un fottuto blog per comunicare ai suoi vicini, i suoi simili, che mi sembrano più irraggiungibili, situazioni incomunicabili. Cazzo, body gaffa, why you? Secondo voi c'avevo voglia di fare un fottuto blog per parlarvi? Fatevi questa domanda, mettetevi tre punti interrogativi e aspettate la risposta che non arriverà, perché chi tace acconsente, va van cool. Bene, il tuo conti brutto sono mail e documenti e assemblee di vomito e insulti che calpestano. Carino, se te ne sei accorto, sono arrivato da inizio ottobre e me ne sono stato zitto fuono fino a mo, a mangiare merda e frustrazione e sentirmi dire da comparse cosa e come farlo. Ma succate col cuore se ne avete ancora uno. Scusate se dopo 4 mesi di pochezza e sovradeterminazioni di altri, vedi Salvini, ex Telecom, eccetera. Ma non ne voglio parlare, sono solo esempi cazzo di un dio castrante. Uno spotta. La tua me riporta indietro il conforto di decine d'anni. E poi ci meravigliamo che la gente evita X. XX, XY, un conto è non voler pompieri, altro è costruire scientificamente il suicidio dello spazio. La gente a XY non ci viene per colpa vostra, per la vostra autoreferenzialità, la vostra specchiusità, la vostra presunzione da militantex che parlano solo coi propri simili, razza indegna, e per cui gli altri sono derelitti umani, come qualcuno ha il coraggio di scrivere. Torniamo 10 anni addietro, perché esistono i risolti dagli anni 70, di cui si paga ancora le conseguenze, e non è certo colpa mia. Il mio obiettivo per i vecchi dentro, invece, è riportarvi alla preistoria della giovinezza, se ricordate cos'è, alla spontaneità del piacere di fare per fare, e non per il dire di aver fatto o per esserci stati. Capite la sottilezza per piacere? Devo scrivere un comunicato pubblico? O forse ci si vede e ne parliamo al bar, all'ortica o al fermento, per esempio? O magari spendo soldi e perdo tempo e vi invito a cena per spiegarvi il concetto? Il mio pensiero rispetto a XY è il mondo e... meglio suicidio collettivo che morte lenta, inesorabile e distruttiva di natura e altri esseri. Ma a voi amanti del movimento inerte e sempre uguale a se stesso, forse va meglio così, non vi siete mai chiesti se gli altri e le altre che non sono comodi col vostro modello come sognano un posto liberato? No, perché esiste solo il vostro schema di centro sociale. Accozzaglia di disobbedienza, autonomia old school, associazionismo e autoconsumo da militanti col punks o gomat. Vi viene il vomito? E scusatemi, se ho ancora una cosa che si chiama dignità e buon gusto, la mossa di M. Con la fialetta puzzolente era l'unica che l'assemblea si meritava lo scorso martedì. Tenetevi convenzioni, rotonde, presentazioni di libri che non leggerete, concerti di gruppi che non passavano di qua, laboratori e servizi che potrebbe accollarsi il comune e per cui potreste essere addirittura pagati. Lo sapete, voi che regalate il vostro tempo a Vanvera, manco vi dessero le stellette della militanza. visto che in assemblea non esistono le condizioni per esprimerlo, lo faccio via mail. Chi si offende è uno sfighè, che non ha nemmeno la forza di guardarsi allo specchio. Trase zitto una buona volta e fa un po' di autocritica invece di accorrere tutti in assemblea a risolvere patemi personali. L'assemblea, la vostra assemblea, potete anche tenervela. Noi si stava provando a farne un posto migliore, ma voi preferite la pochezza e ripetitività. Cazzo di un dio giudaico cristiano! Ma voi preferite la pochezza e la ripetitività. Autocritica. Ripetitività. Ripetitività. Chi si offende è uno sfighè. Chi si offende è uno sfighè. Ripetitività. Ripetitività. Chi si arrende non sfighè. Ripetitività. Chi si arrende non sfighè. Ripetitività. Chi si arrende non sfighè. Ripetitività. Chi si arrende non sfighè. Ripetitività. Chi si arrende non sfighè. Ripetitività. Chi si arrende non sfighè. Ripetitività. Chi si arrende non sfighè. Nota bene, offro consulte psicanalitiche, scopate decenti, droghe buone, passeggiate con i vostri cani, bella musica, manualità, massaggi, ma non questo scempio. Statemi lontane. Non ho finito ma sono stanco e mi avete sfiancato la wallera. Wallera. Non ho finito, ma sono stanco. M'avete scassato la wallera, me l'avete sfravicata. E per chi non comprende i dialetti nostrani indigeni, la wallera sono le palle. E mi scusino le ragazze, a voi avrebbero sicuramente spataccato le ovaie. Il genere qua ce l'abbiamo dalla nostra parte, nel senso che siamo androgini, trans, gente strana, gente con il pisello a posto dell'orecchio, le tette a posto del culo. Quello è il culo, lo sostituiamo alla faccia, che ci portiamo in giro per affrontare sta gentaccia. Tutti i giorni in abitaccia, voglio. Ora vi faccio capire da dove nasce tutta questa tensione, questo nervosismo, queste cose non dette, questi fatti latenti. vi direte che staranno di questi guaglioni, e allora io vi spiego da dove parte tutto questo. Parte da un testo, una mail che è arrivata al suddetto sottoscritto, e ve la leggo, fa cuscì. Ma veramente? Cioè, fammi capire, fai quello che ha girato il mondo e che vuole dare una svolta anche alla palude di questo quartiere. E poi il tuo contributo sono solo mail, documenti, assemblee in cui vomiti, insulti che calpestano ognuno degli anti. E qui c'è un punto di domanda. Gli anti che? Gli anti a detta di chi? Gli anti proclamatici? Stateci lontani, non fateci ripeterci. La mail continua così e dice: ma ripigliati, e non perché non hai il freno a mano, ma perché stai guidando ubriaco e a caso, insultando chiunque ti faccia notare che sulla sua strada c'ha gente, e pretendi pure di aver ragione, non importa perché, non importa per cosa, importa solo che lo stai spraitando tu, importa solo spraitarlo forte. La tua mail riporta indietro il confronto di decine di anni, e poi ci meravigliamo che la gente evita di venire qui nel nostro spazio, il nostro spazio. Un conto è non voler quei pompieri, altro è costruire scientificamente il suicidio di questo spazio. Di questo spazio, il nostro spazio. Così a sentirlo fuori dal contesto, fuori dalle tante assemblee che ci siamo dovuti zuccare, fuori dai malumori, fuori dalle male onde, potrebbero anche sembrare versi degni di nota, soprattutto quando leggo che in una mailing list uno fa male a vomitare la sua frustrazione. Siamo d'accordo, e qui parlo io, certo ragazzi, parlo proprio io e non il suddetto signore di prima, che c'aveva la voce un po' così, perché questi signori così parlano con questo tono che mi ricorda una canzone di Federico Salvatore che un giorno vi presenterò con più calma. Io a quest'uomo qui ho risposto in un testo che si chiama Sulla testardaggine di certi autoproclamati compagni. È del 3 febbraio 2016 alle 11 di mattina, come prima cosa della giornata leggo queste mail, e invece di andarmi a fare una passeggiata, che qui a Bologna c'è il sole, devo perdere il mio tempo a rispondere a questi signori che attaccano personalmente il sottoscritto già da troppo tempo. E non è un fatto personale, qua penso che parlo per molti altri, non rappresentiamo nessuno. Però ci prendiamo le responsabilità di quello che facciamo, quello che diciamo e scriviamo, perché quando lo scriviamo rimane impresso. Un pensiero rimane impresso, non è come quando spraitiamo, quando discutiamo, che ci sta bene, però magari le nostre idee sono un po' ubriache di nervosismo, di fraintendimenti, di malintendimenti. Quindi riprendendo le fila del discorso che perderemo spesso e lo noterete, torno alla mail che vi dicevo. Avevo chiesto espressamente una polemica ad personam. Chiedi cose che non sai mantenere, risponde lui signora. Non ho risposto al resto perché no, non considero né di doverti alcuna risposta, visto che le domande le fai Orlando. E questo, e questo, e questo non lo sopporto, né da te, né da nessun altro, da nessun'altra, dice signora, allo povero guaglione sottoscritto. Che si piglia anche il tempo per riflettere, vuol dire, e baggeritto. Dopodiché, passato qualche minuto, qualche decina di minuti, un'oretta, ma fu una sigaretta, una cannetta, ma poi vanno caffè e latte, vegan, guaglio, perché qua non bugiamo MOOC, fa la colazione, ricordatevelo, poi ne parleremo più approfonditamente. Caffè e latte, sì, vegan, fatto con... soia transgenica di qualità, soia transgenica per vegani felici, il mio caffè latte vegan me lo prendo ogni mattina. E quindi ritornando alla mail, faceva così. Giusto per riprendere il filo e concludere questa discussione, ragazzi, vado un po' più veloce perché è tardi e dobbiamo andare tutti quanti. È sabato sera e ci vogliamo anche divertire noi. Non sappiamo voi che fate, se vi annoiate. Noi vi invitiamo la prossima volta, alla prossima diretta. Saremo qui, informali, come sempre. Chi ci sta, chi passerà, chi ci avrà la voglia parteciperà. Non ci vogliono mica appuntamenti, ci vediamo qui alle 20, state attenti, non accetteremo ubriachi, fattoni, e non perché siamo proibizionisti, anzi, ma ci piace goderci le sostanze e farci avanti con creatività. Ecco qua, tipo un podcast di radio, tipo un pezzo di rap, tipo una base che spacca. E qua ci abbiamo Robby che fa basi da tanto tempo e prima o poi ve la fa una, wagyu. Prima o poi. Comunque, riprendendo questo testo, se non ci andiamo più, già sono le 9:10 e ci parte il treno. Non ho risposto al resto non perché si sarebbe trattato di polemica, ma perché sarebbero stati solo insulti, perché scrivi violento per suscitare violenza e con le mie risposte scritte, riscritte, cancellate, ti avrei solo dato ragione, sì, lo so come funzionano i flame, ma che state i che cazzo è un flame, frate, ma mandami un link di Wikipedia se mi dici queste parole. Questa è una parentesi mia, scusate, riprendo il discorso da dove l'avevo lasciato, la mail del compare, il signore suddetto di qui sopra. Non ti ho risposto perché il resto, perché ti poni come colui che detiene la verità, che si scandalizza perché ci sono alcuni, alcune, autodefiniti, compagni, compagne, ma scusa, c'è una commissione giudicatrice? Qualcuno tiene la lavagnetta dei punti militanza? O ci siamo persi il punteggio minimo, visto che si fa tanto parlare del curriculum, sai dove lo posso consegnare? A me, quelli che si credono meglio danno proprio fastidio, e io quindi qui ti ho risposto solo perché invece mi sono zufazzo di quelli che passano qui nello spazio XYZ di qualche angolo del mondo. E debba succarsi ogni sclero individuale come una missione oramai stabilita, comandata. Lo dici anche tu, evitiamo di fare assistenzialismo, evitiamo anche il buonismo, evitiamo però anche i troll a casa dei troll, liste spazi più spesso muoiono piuttosto che reagire. E poi ho una domanda. Ha un po' con vedere con la logica, mi sembra semplice quale persona sana di mente insultata appena mail di fila una dopo l'altra, poi dovrebbe provare allegria e simpatia nel fare le cose insieme a chi l'ha insultato, comunque in un contesto in cui l'insulto e la sovradeterminazione costituiscono la dialettica prevalente, e qualche complamato metodo libertario che mi sfugge. O è una tua sperimentazione personale? E qui si conclude la risposta del supro signore, che vi ripeto, fuori da un contesto potrebbe averci anche un senso. Se avete appreso 3 lauree, why you? Se ci avete i soldi per farvi un'accademia della Crusca e capire che cazzo dice questa. E io gli ho risposto quello che vi ho detto prima. Quel testo sulla testardaggine di certi autoproclamati compagni. E mo vi lasciamo qui, PKT Wild Solitary Stories. Vi volevo mandare l'ultimo pezzo di un guaglione che si chiama Anzo, al momento. Come Anzo è poco conosciuto perché il suo primo disco, ma in realtà il guaglione suddetto faceva parte di una formazione conosciuta abbastanza a tutti e tutte come Istigazione a Delinquere. Progetto al momento ibernato, speriamo che riprendano presto e si scongelino dal freddo beneventano. Qui vi mandiamo Pirati parte 2, che riprende Pirati parte 1 del disco con Istigazione. Anzo respira. Arrivo con la comitiva, ciurma recidiva, zè sublima merda a mille nella stiva. Ti disutura sull'uncino, 20 leghe sotto come Nemo, col bottino ai ferri corti col nemico. Giro di buon niente canoa, perla nera sopra la marea, canto di sirena, luna piena, il mondo spera che io muoia. Tutto il corpo grappa dalla terra, ferma all'acqua, stappa, attacca, qua l'azione parla, smuove la coscienza. Scrivo col rosso della birra, aspiro fumo, capogiro e sputo lessico zaffiro. Già dai tempi del papiro, pessima condotta, la tua testa è scossa, scorza, dura senza scorza. Porta lancia corpi nella fossa, ossa sul vestibolo e godi, viaggio a 10 nodi, caccio rime tipo sparachiodi, dillo che ci odi, modi drastici nei testi che ti aspetti, alla seconda non ne esci, il padrone dorme con i pesci. Pirata a terra sulle onde, ovunque sempre infetti per il mondo, tipo germe mai strisciato come un verme. Clima di tensione sotto pelle ed evidente, brindo con canaglie, rubo gemme e sputo fiamme. Pirata a terra sulle onde, ovunque sempre infetti per il mondo, tipo germe mai strisciato come un verme. Clima di tensione sotto pelle ed evidente, brindo con canaglie, rubo gemme e sputo fiamme. Odio il cardio palme, non ti sbagli, le palmi delle mani stringi calli, colli di bottiglie e crolli su cuscini di coralli. Secoli a tacere, apri sto corsiere, bruciano galere, si frantuma la tua torre di Babele. Chiudadelle, segni sotto pelle, perle sulle barre come mani sulle sbarre, fuoco e fiamme dalle celle, niente palle, problemi sulle spalle, palle di cannone, falle nel sistema, affonda il tuo comune. Stacci, che tanto non ci cacci dalle strade, in mezzo ai denti spade, sai che accade, ti si apre la porta dell'ane. Sale l'odio come un'onda, fuori forma, fuori per chi sonda, molte e performa, la mia merda è brutta, ascolta, pompala che gratis, per il sequel sforzi duplicati, fuori a 100 gradi, mica per palati raffinati, tirati ieri come oggi, oppure sloggi, ora di rivolta, sincronizza gli orologi. Tirati a terra sulle onde, ovunque sempre infetti per il mondo, tipo germe, mai strisciato come un verme. Clima di tensione sotto pelle ed evidente, brindo con canaglie, rubo gemme e sputo fiamme. Tirati a terra sulle onde, ovunque sempre infetti per il mondo, tipo germe, mai strisciato come un verme. Clima di tensione sotto pelle ed evidente, brindo con canaglie, rubo gemme e sputo fiamme. altro giorno, un altro scontro senza sconto sopra la mia testa morta. Gli avvoltoi fanno lo stormo, finestre chiuse e tapparelle abbassate mentre la pioggia sbatte con violenza. Come fossero cascate, ogni notte colleziono paranoie attese, conficcate nella testa come i chiodi di Hellraiser. Mi porto sempre appresso i miei mostri, i miei muri apparentemente impenetrabili. Vedo gli ingressi chiusi, colgo uno spiraglio solo quando non mi lascio andare. Arco teso, freccia mira pronta a penetrare. Manco questa notte, non mi passa un cazzo, me ne vado in giro solitario per ridurre questo strazio, tenendo passo svelto, il cervello attento. Visiera nera copre voci su cui non farei affidamento. Sopra il petto c'è lo inciso e perenne, la doppia L del prefisso malato del germe. Un altro giorno sotto il mondo claustrofobico a fondo, i tunnel schiacciano, ne esco, vi disprezzo e non rispondo. Sprofondo sempre più in basso, brucio ogni vostro sorriso, arrancando un altro passo. Un altro giorno sotto il mondo claustrofobico a fondo, i tunnel schiacciano, ne esco, vi disprezzo e non rispondo. Sprofondo sempre più in basso, brucio ogni vostro sorriso, arrancando un altro passo. Porto ferite sul corpo, segno di ogni giorno passato, consumato, annoiato e drogato, certo vivo da ingrato, alterato. Senza casco e 180 stringo il manubrio, è un viaggio allucinato, senza ritorno sotto il diluvio. Tocco il fondo anche stanotte con più merda nei polmoni, sorrido e parlo con i mostri delle mie allucinazioni. Preservo la vostra prole, uno sporco futuro infetto, prego la fuga di risvegliarmi morto nello stesso letto. A casa mia con i miei spettri marcisco lentamente, mentre mi sorride il mio riflesso dannato a luci spente. Tra cocci di bottiglie rotte sdraiato sfido il destino, sgrippo il motore ad occhi chiusi a fani spenti a primo mattino. Sindrome di Asperger quando parlate rumore, in questa stanza sono fantasmi, distorgo la percezione. Un altro giorno sotto il mondo con gli occhi rossi tra la gente, se getto un altro mozzicone lo capiscono, valgo niente. Un altro giorno sotto il mondo, occhi rossi. Questi erano il germe, Wayu, tunnel sotto il mondo. Giusto per ricapitolare e per citare i Wayuni che abbiamo ascoltato, c'erano il germe, tunnel sotto il mondo, Anzo col suo nuovo disco Respira, abbiamo ascoltato Caglia la Orden, un madrilegno col suo pezzo Pasi Tranquillità. E ora, per chiudere, Wayu, vi mandiamo un pezzone di un gruppo che ho appena scoperto, lo ammetterò, che si chiama Mistura Mortale, di Bazzano del Grappa, penso si chiama il posto, che abbiamo invitato a un'iniziativa che faremo il 24 e il 25 aprile qui all'XM24 di Bologna, ma vi aggiorneremo più avanti di questa cosa, vero Bobby? Vi aggiorneremo più avanti. Il 23 e 24 aprile, in vista del 25 aprile, organizzeremo una due giorni qui ad XM nel quartiere Bolognina, dietro la stazione di Bologna. Facile arrivarci, scroccate i treni, prendete megabus con 5 euro, arrivate a Bologna, e non per fare pubblicità, ma poi sparagna, Wayu. Non prendete la TAB se vi fa l'offerta a 10 euro. Sto cazzo, se siete no TAB non lo pigliate lo TAB. E nemmeno Italo di Montezemolo, non so cazzo di chi, fa lo stesso. Quindi per salutarvi, vi ricordiamo che non abbiamo avuto tempo di presentarci, ma sul sito, il blog, potrete leggere, se siete proprio impazienti, un testo chiamato Presentazioni. E lì capirete chi siamo, se no portate pazienza e ve lo diremo nella prossima puntata. Qua non diamo appuntamenti, facciamo solo pod caos. Speriamo che vi siamo piaciuti e speriamo di ripeterci fra una settimana o due, forse un anno. Facciamo che questo è il numero 00, poi ne riparliamo. Robby, sei d'accordo? Dai, dici qualcosa, il nostro fonico, quello che ha fatto il direttore di orchestra. E se questo suono podcastoso è stato ricreativo, è anche grazie a questo direttore di orchestra qua, a cui vogliamo sì fare pubblicità, il direttore Ronin, un paisano mio, fratacchio. Dai, dici qualcosa, giusto mentre cambi il pezzo. Qualcosa. Come potete vedere, vedere. Il fonico è silenzioso. Allora voglio, visto che me ne devo andare, mi parte il treno, vi metto in mistura mortale, anime morte, e vi lascio un bacione. Voglio bacione, bacione. Stili tanti come le stelle nel cielo che conti. Una mano con guanti, tesse, fili sgargianti, inventa racconti. Non fare confronti, ogni pezzo ha un prezzo che sconti. Vivi gli istanti senza rimpianti, da latitanti in mezzo agli scontri. Qualunque mente stabile sotto un'ombra di lapide, di rapido l'anima lavida, corte di Davide. Poiché il dominio d'oggi è mano i moggi, esseri minuscoli con pochi muscoli, ma molti appoggi e se sfoggi, fisici grotteschi alla Golia, con minuti teschi, organi freschi per la polizia. Abbiamo poche speranze, ancora meno fede, c'è chi comanda da stanze fino al marciapiede. Si riainizia le danze, il tricolore cede, vivo con l'ardore nel petto, agisco come chiede. In un paese che si appoggia a falsi miti, dalla lotta all'evasione alla lotta tra partiti, dalla sfida di pallone, votazione ai televoti, tra politici di scambio come il nostro Scillipoti. Finzione degli codici cattolici, negali ti prego provaci, regoli i tuoi spiriti solo a sentirti contro, chi calpesta la dignità di chi sta nel fondo nel mondo, c'è chi gira in tondo, non riflette, accettavi il denaro per mostrare buie tette, aspetta di sognare per segnare le tripete, mentre aspira solo al podio per trofei, medagliette, solo, Roma brucia e non è stato il re, ma gente come te che ha le palle piene di com'è, Roma brucia e non è stato il re, ma gente come te che ha le palle piene di com'è. Attento a ciò che dici, ciò le mie radici, sto in un paese che si trova alle pendici, so che serve tempo e che servono passioni, veloce come un blappo qua passano stagioni. Combattere sotto il segno di una nuova era, ribattere allo sdegno, unico impegno delle maschere di cera, abbattere il disegno di chi impera, per troppi è una chimera che sa un sogno, per noi altre vita vera. Combattere sotto il segno di una nuova era, ribattere allo sdegno, unico impegno delle maschere di cera, abbattere il disegno di chi impera, per troppi è una chimera che sa un sogno, per noi altre vita vera. Ti parlo con affetto, schietto, aspetto, se le mazzate che prendo le prendi pure te, non ti inganno, cazzate come quelle del tiranno non le fanno, i tipi onesti come me, detesti cliché, se resti, ascolti o ci contesti, condividi l'intenzione di sti testi, no. Non cerco vite da padre eterno, guida inferno, cambio di infermo per trovare mette perfette che calciano a rete nell'abile inverno del celere trapasso del mio destino e di quello che passo, se restasse coerente sempre a quello che spingo. Non cerco vite da padre eterno, guida inferno, cambio di infermo per trovare mette perfette che calciano a rete nell'abile inverno del celere trapasso del mio destino e di quello che passo, se